9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 27 di luglio. Come vedete i mercati purtroppo continuano a dar ragione a chi vi aveva avvisato, cioè che fanno bene dal loro punto di vista a leggere anche l'Eurovertice di giovedì come un invito a continuare a scommettere al ribasso su Spagna e Italia, paesi troppo grandi per poter essere interessati dall'applicazione di una cura diluita come quella che in 20 mesi è arrivata a dire che il totale di aiuti e garanzie per la Grecia è superiore al suo debito pubblico, quindi applicata a grandi paesi, applicata all'Italia, significherebbe che gli oneri per l'Europa sono più di 2.000 miliardi di euro necessari. In questo caso i mercati naturalmente fanno bene a capire che non si è deciso questo giovedì e quindi vanno sotto sull'Italia, svendono l'Italia, la vendono al ribasso ed è facile in quel caso con le scommesse finanziarie anche guadagnarci soldi in questo caso. E inevitabilmente giorno dopo giorno però, dopo la manovra, la politica accumula distanza rispetto a ciò che i mercati credono di doverle chiedere, e ieri sera avete assistito a questa presa di posizione inedita e dura, molto dura, di tutte le associazioni dell'impresa, Confindustria alla testa, che ha promosso questa presa di posizione, di tutte le associazioni imprenditoriali italiane, di tutte le confederazioni sindacali, del sistema bancario con l'ABI, chiedendo una forte discontinuità alla politica. Non siamo alla richiesta del andate a casa, ma la forte discontinuità è qualcosa che ci si avvicina. Questo forse spiega perché poi alcune organizzazioni sindacali vicino al governo in tarda serata hanno preso le distanza, perché il governo poi naturalmente chiama chi è più vicino e chiede correzioni, però sta di fatto che noi stiamo andando a un avvitamento. Questo è ciò che avviene sul tavolo economico-finanziario e dei mercati, malgrado la manovra recentemente approvata, e forse proprio perché è stata fatta male e approvata in quel modo, cioè poco strutturale, solo tasse in più, quindi minor crescita e minor sostenibilità del debito pubblico. Meglio che niente, ovviamente, però questo è il giudizio che danno i mercati. Dall'altra parte c'è un altro capitolo, quello di cui ci occupiamo oggi e che segna un'altra linea di frattura molto forte tra l'elettorato, la cittadinanza, giudicando dai sondaggi, e la politica, e questo riguarda la politica e la giustizia, riguarda la questione morale, riguarda gli scandali, le indagini, le tangenti, i coinvolgimenti. Ce n'è per tutti i gusti, perché al coinvolgimento poche settimane fa che lambisce il ministro del tesoro Giulio Tremonti attraverso il suo più stretto collaboratore, uno dei più stretti collaboratori diciamo meglio, Marco Milanese, per il quale sapete è pendente una richiesta che andrà dopo la pausa estiva al voto di Montecitorio, e la richiesta da parte della magistratura è quella di una custodia cautelare come quella che la Camera ha approvato la settimana scorsa per l'onorevole Papa, segnando anche lì una discontinuità, visto che nei quattro casi precedenti cui era stata autorizzata la storia repubblicana era solo per reati di sangue. E quindi tutto può lasciare intendere che anche per Milanese, accusato di reati che a mio giudizio sono come ipotesi, ma più gravi di quelle che gravavano sul Papa, tutto può lasciare intendere che la Lega bissi il suo voto favorevole e quindi si vada all'arresto di Milanese da una parte. Dall'altra c'è questo filone che ha investito il PD, e ha investito il PD nel senso anche del Bersani, perché si parla dell'ex sindaco e poi presidente della provincia, dell'ex sindaco di Sesto San Giovanni, grande fortilizio storico rosso alle porte di Milano, poi presidente della provincia di Milano, di Filippo Penati, e di queste storie di tangenti per finanziamento al partito di cui diversi imprenditori stanno rilasciando testimonianza, vicenda che viene dopo il no invece del Senato all'arresto richiesto sempre dalla magistratura per il senatore tedesco, e nello stesso giorno, nelle stesse ore, il Senato ha detto no, mentre la Camera diceva sì all'arresto del PDellino Papa. Trovate su questo anche sui giornali di oggi ricchissima messe di approfondimenti che vengono dai verbali dei diversi filoni d'inchiesta, trovate nuove circostanze intorno alla vicenda di Milanese e del e della casa in cui era ospite Tremonti, tra cui anche un colloquio di Milanese a Repubblica in cui si tenta di precisare questo aspetto che è molto delicato ed è molto scivoloso. Come trovate per esempio sul Panorama che esce questa mattina, Panorama dedica la sua copertina ai panni sporchi del PD, il Partito Democratico e la questione morale, chi sono i 100 dirigenti, amministratori, indagati, imputati e condannati. È una materia che ha indotto ieri il segretario del PD Bersani a dire che la macchina del fango si deve fermare, che il PD è estraneo e che ora penserà anche a far partire le querele. Ha parlato in maniera per me del tutto impropria di class action a nome del partito nei confronti di chi rilancia le accuse sui giornali. Un segretario di partito forse dovrebbe sapere che la class action per la legge istitutiva non è affatto applicabile a cose di questo genere. La class action si può incardinare ed è molto complicato, non se n'è ancora incardinata una sola, per inadempienze contrattuali o per gravi danni commerciali a collettività, in quanto tale quindi con l'onorabilità di un'associazione privata come un partito non c'entra niente, non è applicabile, eppure ha detto faremo la class action a tutela della nostra onorabilità. Le prese di posizione sono diverse, i giornali di orientamento diverso a seconda delle due parti politiche picchiano ciascuno la parte politica contrapposta, e questa è la posizione che ha preso il giornale Libero in questi giorni, il giornale con la sua campagna sui diversamente ladri per esempio. C'è poi chi picchia tutti in maniera diciamo abbastanza omogenea, con uguale durezza di toni. Parlo in questo caso per esempio dei colleghi del Fatto Quotidiano. Sul Fatto Quotidiano, il quotidiano diretto da Antonio Padellaro, su cui scrive tra l'altro Marco Travaglio, Barbacetto e tanti altri, oggi trovate un colloquio di Marco Travaglio con Barbara Spinelli, in cui viene liquidato letteralmente l'appello difensivo di Pierluigi Bersani con questa definizione: si tratta di un film dell'horror berlusconiano con sottotitoli sovietici. Più che una class action, quella contro la stampa è una cast action. Troppo comodo farsi scudo dei militanti, con giudizi durissimi, ve ne cito solo uno: non vedo differenza con le parole usate da Marina Berlusconi nel minacciare il Fatto. Altro che inopportunità, sono minuetti di parole come ai tempi di Maria Antonietta. Poi, conclude Barbara Berlusconi, c'è la ghigliottina. Ecco, e questa formula così evocativa mi serve in particolar modo per dare poi la parola agli ospiti che vi presento, perché oggi domani noi dedichiamo due trasmissioni della versione di Oscar a incontri che avvengono a un appuntamento che è diventato fisso nell'estate del dibattito pubblico italiano, Cortina Incontra, che si tiene da fine luglio fino alla fine di agosto, quindi dal 23 luglio al 28 di agosto, e che negli anni con crescente successo è stato organizzato da Enrico Cisnetto, Iole Cisnetto, fino a diventare appunto il luogo del dibattito estivo italiano, con politici, giornalisti, scienziati, uomini di cultura, scrittori, e con 2, 3, 4 incontri anche a ritmo quotidiano che si susseguono. Uno di questi è in particolare dedicato al tema di cui ci occupiamo oggi, cioè politica e giustizia, la storia che si ripete, ed è quindi proprio per ricordare a voi tutti l'importanza di questi appuntamenti. Se siete a Cortina da quelle parti, vale la pena davvero che andate sul sito www.cortinaincontra.it e vi decidiate a quale parte della giornata dedicare un po' di ascolto. Noi abbiamo tratto oggi e domani gli ospiti da Cortina Incontro, e oggi sono gli ospiti che dibatteranno esattamente su questo tema. Quindi abbiamo con noi innanzitutto Sergio Luciano, che è giornalista e partner dello studio Cisnetto, giornalista che ha fondato tra gli altri il primo quotidiano online italiano, quindi insomma è un collega che stimo molto. Buongiorno a te, grazie Sergio. Grazie Oscar, buongiorno a tutti. Poi abbiamo Davide Giacalone, editorialista di Libero e del Tempo. Faticherò a usare il lei con Giacalone, perché diciamo ci conosciamo da un po' di annetti. Buongiorno e grazie a Davide Giacalone. Buongiorno, grazie a te Oscar, buongiorno a tutti. Gianni Barbacetto, appunto, giornalista del Fatto Quotidiano, che ho citato prima. Buongiorno e grazie anche a Gianni Barbacetto. Buongiorno, buongiorno a voi. Toni Mira, giornalista di Avvenire. Grazie a Toni Mira. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. Barbacetto, posso cominciare da lei chiedendole la posizione, non voglio dire di splendida solitudine, ma sicuramente di marcata singolarità che ha il Fatto, picchiando di qua e di là dicendo c'è un Berlusconi di cui è noto cosa si pensa nel fatto, ma dall'altra parte però se Pierluigi Bersani dà questa reazione ai coinvolgimenti degli esponenti del suo partito nelle indagini non è diverso e il giudizio è altrettanto duro e sprezzante. Cosa vi induce a pensare? Siamo alla replica di una macchina mediatica giudiziaria oppure è la politica italiana che non ci ha capito niente da, a distanza di 20 anni dai prodromi di Mani Pulite? No, siamo alla ripetizione, anzi alla continuazione con mezzi soltanto leggermente cambiati di quella che è stata chiamata Tangentopoli. I partiti e ahimè le distinzioni destra-sinistra pesano poco, non ho detto che non pesano, ho detto pesano poco, hanno continuato a mantenere in forme leggermente diverse naturalmente la corruzione, l'illegalità, i finanziamenti illegittimi, la concussione come metodo per fare politica. Prima si parlava di class action, ma la vera class action che andrebbe fatta sarebbe quella degli elettori di un partito contro i loro vertici. Quella di tutti i partiti. Io sognerei che gli elettori del PDL o gli elettori del PD aprissero una grande class action nei confronti dei loro vertici che infangano gli ideali, la passione, gli interessi legittimi che vengono portati avanti giorno per giorno dai cittadini, dai gruppi organizzati, anche da tante persone che fanno politica nelle istituzioni appunto per legittimi interessi e non per arricchimenti personali, per questioni di potere oppure per usare del potere che viene dalle istituzioni e dalla politica per aumentare il proprio di potere in maniera indebita e contro le leggi. Ecco, questo andrebbe fatto, una grande class action di ciascun partito contro i propri vertici. Giacalone, è però una tesi contrapposta a questa è che noi viviamo in realtà da un paio di decenni un'esorbitanza nell'equilibrio tra i poteri di cui la politica, la sua maggior colpa oltre a quello poi di peccare con degli appartenenti individuali o più che individuali messi in rete, però la maggior colpa della politica è quella di non aver capito che l'esorbitanza delle indagini di fronte alla poi spoliazione dei suoi poteri nasce da uno squilibrio al quale non ha saputo porre, al di là della correttezza, dell'onestà e della trasparenza dei comportamenti individuali di partito, non ha saputo porre alcun rimedio poi organico, ordinamentale. Abbiamo l'ennesimo nuovo ministro della giustizia, ma da questo punto di vista in 17 anni una riforma della giustizia che fosse per il sistema e per mettere più chiarezza tra politica e giustizia non c'è mai stata. Assolutamente no, naturalmente sono due questioni diverse che si accompagnano perché la storia procede insieme. Da una parte c'è la questione della la corruzione della vita pubblica che deve essere affrontata in quanto tale, sia dove ci sono i reati in sede penale e sia in sede politica, perché non è che queste cose succedano solo per vizio o devianza di questo o di quel signore di destra o di sinistra. E questo è un problema. Dall'altra parte c'è il fatto che la nostra giustizia, ma non credo neanche sia più un'opinione, non funziona perché non funziona il giudicante, perché si arrivano con decenni di ritardi. In un paese normale e in un sistema di galantomismo l'indagato si fa da parte, fa, come si dice sui giornali, orrida immagine, un passo indietro. Sì, però se poi lo comunicano dopo 10 anni se è innocente o colpevole, questo deturpa gravemente e irrimediabilmente la vita pubblica. Sapere di un parlamentare di cui viene richiesto l'arresto e che la discussione sull'arresto avverrà dopo la pausa estiva è potentemente drammatico o potentemente ridicolo, nel senso che l'arresto, ove mai sia necessario, lo si deve fare in ragione di urgenza per inquinamento delle prove, fuga all'estero, pericolo di reiterazione del reato che riguarda solamente i reati di violenza, i reati gravi, non è che il pericolo, diciamo, immaginifico di qualsiasi reato giustifica la custodia cautelare. Questa deformazione, questa incapacità di mettere mano in maniera seria alla riforma della giustizia, l'avere incancrenito il dibattito da una parte nella difesa comunque sia del magistrato che inquisisce ed arresta e dall'altra della dell'impegno solamente a 6 o 7 procedimenti penali che saranno rilevanti per chi è coinvolto, ma sono assai meno per il resto della collettività, questo errore fa sì che 20 anni dopo, 19 per la precisione, ma insomma 20 anni dopo, si riproduce una scena che sembra uguale, ma in realtà è radicalmente diversa, perché è radicalmente diverso il contesto storico e politico. Posso farti una breve domanda aggiuntiva? Non è anche completamente diverso rispetto ad allora il ruolo, la struttura organizzativa, il peso che hanno i partiti? Perché poi questa cosa non mi sembra così secondaria rispetto a quelli no. di allora. No, anzi, questa è una delle questioni, diciamo, che sta a cavallo tra l'istituzionale e il costume. Per dirla in maniera sbrigativa, e quindi chiedo perdono per la rozzezza, però insomma voglio dire, nel 92-94 è emerso un problema enorme di finanziamento illecito dei partiti, con ragioni storiche, credo che sia un altro dibattito, Oscar, quindi non mi fermo su questo. Dentro questo finanziamento illecito dei partiti c'era un gruppo di manigoldi che procedevano ad arricchimenti personali e privati. Qui mi pare sostanzialmente l'esatto contrario, cioè quello di cui si legge, fermo restando la presunzione di innocenza e la necessità di fare i processi, quelli di cui si legge sono sostanzialmente tutti arricchimenti personali, dove i partiti, insomma, forse se prendevano una briciola era tanto e sei comunque colpevole. E su questo è anche la mia impressione, però poi quando c'è al giro torniamo a Barbacetto voglio sentire la sua opinione su questo. Sergio Luciano, rispetto a chi dice... anche a sinistra, lasciamo perdere tutti i difetti evidenti della forma partito carismatica, della scelta iper dall'alto, ancor più di quanto consenta la legge elettorale in ogni sua articolazione, senza mai un congresso, senza mai una cosa che lo renda un partito vero, che sta nel centrodestra, prima in Forza Italia, poi nel PDL, con Berlusconi alla testa, e quindi con tutto ciò che in mancanza di trasparenza e di responsabilità un meccanismo come quello del partito carismatico implica anche per il comportamento poi individuale e la correttezza del comportamento individuale. Però c'è chi dice dall'altra parte, il PD come si vede la lezione non l'ha imparata, perché tutte le volte che poi decine di suoi amministratori, politici a livello locale, personaggi che poi però sono anche nella segreteria nazionale, vengono colpiti dalle indagini, si riparte da una parte con la famosa intervista di Berlinguer sulla diversità, ma dall'altra è la zoppia evidente di questo ragionamento, perché in realtà in un coinvolgimento di sistema e senza voler dire che tutti sono uguali, perché ogni storia è diversa, e poi alla fine questa storia diventa una specie di disco rotto, lo dice il fatto da una parte, lo dice il panorama dall'altra, e però lo dicono anche tanti militanti, iniziano a dirlo anche alcuni dirigenti, la posizione di Renzi, di Civati che dice basta con gli amici degli amici e così via, lo dice Ignazio Marino, lo ha detto diversamente Arturo Parisi. C'è un capitolo di mancato approfondimento, di mancata lezione tratta che riguarda specificamente il PD e la sinistra sulla storia della politica, giustizia e indagini per malaffare e tangenti? Secondo me sì, ed è purtroppo molto facilmente comprensibile in ragione di marketing elettorale, cioè a tutt'oggi e al netto di ogni considerazione che vogliamo farne sulle cause, è un fatto che la sinistra ha avuto più, come dire, vantaggi che danni dalle tangentopoli che si sono succedute e che stanno rimontando in questo momento, per la semplice ragione che in termini statistici i bersagli, i colpevoli individuati da questi tangentopoli erano prevalentemente altrove, quindi l'affermazione di una diversità morale che oggi sembra sbriciolarsi di fronte alle nuove accuse ha forse fatto il suo tempo, però quantitativamente, oggettivamente le accuse, le vittime, lasciatemi semplificare così, delle tangentopoli sono state riscontrate, si sono infittite soprattutto altrove. Quindi è stato più facile dire alla fine siamo i meno sporchi, i meno peggio, se non altro, e quindi rinviare una presa di coscienza, una disanima diversa, anche forse il porre mano o nelle fasi di governo della sinistra o neanche nelle fasi più lunghe di opposizione di questi ultimi 15 anni, porre mano a delle riforme che del finanziamento della politica, per esempio, che tagliassero un poco di erba sotto i piedi al malaffare individuale, perché è nella commissione dei due livelli, secondo me, che si annida spesso all'inizio l'origine all'origine della corruzione, cioè il fatto che da una parte chi esercita un potere è soggetto quotidianamente a lusinghe a volte pressanti e comunque, come tutte le tentazioni, pericolose, e dall'altra parte ha delle esigenze per l'impresore come candidato, come responsabile di partito, eccetera, per cui che non trovano una risposta reale nell'ordinamento, perché il finanziamento della politica, dal famoso discorso di crack sia alla Camera in poi, non è mai stato risolto come tematica istituzionale, cioè non si sa di questi partiti di cosa dovrebbero vivere. Però quindi... Mira, un secondo, spostiamola a Tony Mira la domanda, perché se facciamo il paragone rispetto al sistema di finanziamento prima Repubblica, diciamo, il finanziamento seconda Repubblica, sub specie un po' ipocrita, di rimborso elettorale per aggirare quanto gli italiani avevano deciso in un referendum, è molto maggiore, e di anno in anno nelle legislature diverse che si sono susseguite, come sapete, è stata adottata addirittura la questione di assumerlo per intere legislature anche in caso di voto anticipato, e quindi sono botte di centinaia e centinaia di milioni di euro. Tanto è vero che poi i partiti dichiarano spese inferiori a quello che prendono, tranne che in alcuni casi, alcuni, come sapete, danno delle documentazioni su cui persino i criteri superficiali con cui si effettuano questi accertamenti pongono enormi punti interrogativi, e quindi apparentemente non è che ci sia questa grande fame rispetto ai tempi della Prima Repubblica, nel senso che lo Stato, insomma, è abbastanza munifico, eppure capitano queste cose. Tony Mira, è una questione quindi puramente antropologica, di criteri migliori perché i politici non delinquano e siano più responsabili, a qualcuno li deve scegliere con una legge elettorale in cui ci sia un meccanismo di questo tipo, oppure no, c'è una questione sistemica ancora a suo giudizio? Allora, io tanto sono perfettamente d'accordo con l'analisi che ha fatto Giacalone, che tu hai stimolato sulle differenze tra allora e oggi, e questo si incrocia con questa tua domanda. Allora era una questione di partiti, questa mi sembra più una questione di persone, però tu hai detto una parola, scegliere, i partiti scelgono. Mi domando a questo punto, visto che gli episodi di cui stiamo parlando in queste settimane, in questi mesi, riguardano in gran parte precedenti, come questi partiti scelgono e come poi ci impongono di votare delle persone che poi scopriamo dopo aver fatto, per ora diciamo è solo l'accusa e quindi non c'è nessuna decisione da parte dei giudici, dei fatti decisamente gravi. E qui si incrocia non solo la questione del sistema elettorale, ma come hai detto tu anche la questione del sistema che è stato rapidamente rimosso, dei costi della politica, perché i costi della politica non sono solo i costi di Camera e Senato, diciamo la verità, i costi della politica sono i costi anche più nascosti dei nostri partiti, che hanno fatto certo una cura dimagrante, però poi ogni tanto tendono di nuovamente all'obesità. Allora dobbiamo anche qui capire se quando ragioniamo di costi della politica dobbiamo andare più a fondo, usare non soltanto il laser, no? Il bisturi laser, ma usare magari un po' più l'accetta. Un po' più l'accetta, e naturalmente bisogna vedere se poi è quella politica o se l'accetta diventa sistematicamente quella giudiziaria, e con i giudici che dicono noi facciamo il nostro dovere, cari signori. Allora, sul rapporto tra politica e giustizia, solo 5 secondi per chiarire agli ascoltatori che mi accusano di star di qua, star di là, che a seconda di come ho presentato si capirebbe che io sono più favorevole agli indagati di una parte o dell'altra. Assolutamente no, qui ci interroghiamo su un fenomeno. Dopodiché, a chi mi fa notare che c'è una differenza comunque incomparabile tra la sinistra in cui se indagati ci si dimette, non si accusa la magistratura di persecuzione, si querela solo chi scrive il falso, nel caso di Tedesco, come nel caso di Penati, ci si dimette da che? Scusatemi, non ci si dimette da niente, ci si dimette dagli incarichi di partito, ma per il resto non ci si dimette, perdonatemi, né da una parte né dall'altra. Non so se sia giusto dimettersi, non entro in questo, però la differenza, perdonatemi, con la sinistra che si dimette e la destra che no, non c'è, non la vedo, punto numero uno. Punto numero due, non si accusa la magistratura di persecuzione. Certo, i toni sono diversi, visto che il centrodestra è 17 anni e che sostiene che vi è un accanimento e quindi una persecuzione nei confronti di Berlusconi e del centrodestra, questo non c'è dubbio. La sinistra ha un problema, perché invece ha sempre detto che l'assoluta autonomia e l'indipendenza e i poteri che devono rimanere intatti del pubblico ministero, io sarei per equilibrarle diversamente in una riforma della giustizia, ma comunque quelli vanno rispettati, e tranne il fatto che poi quando poi alcuni esponenti vengono indagati non mancano né le espressioni in cui si sostiene che si tratta di fumus persecutionis, né espressioni come quelle usate da D'Alema e da Dalemiani quando vengono colpiti, che invece non sono molto diverse, perdonatemi, da quelle che si sentono poi dire da parte degli esponenti del centrodestra. Si querela solo chi scrive il falso? Beh, no, vogliamo parlare delle querele minacciate o fatte da D'Alema? Non lo so. Però, detto questo, Barbacetto, torniamo al punto. È diverso e quanto, secondo te, il sistema dei partiti oggi sono solo fatti personali, arricchimenti personali oppure no? Questo riguarda per esempio anche Penati. La vicenda di Milanese e Tremonti è una faccenda di fatti personali? Non lo so, tu che opinione hai da una parte? Dall'altra, siete il quotidiano che da un anno a questa parte, oggi giustamente pubblicate le graduatorie della DS maggio su maggio 2010-2011, maggio su maggio voi siete quelli col guadagno più 18%, tutti gli altri perdono, Repubblica, Il Giornale, Corriere della Sera, destra e sinistra per così dire. Allora, seconda cosa, quanto conta anche l'assecondare le tricoteuse nei toni estremi egualmente duri da una parte e dall'altra? Terzo invece, la terapia, se si dovesse affidare a te di questa delicatissima questione tra politica e giustizia, malaffare sì oppure esorbitanza dei poteri, tu che faresti? Ma dunque, appellarsi alla riforma, chiedere una riforma della giustizia, come fanno a destra ma anche a sinistra, ogni volta che salta fuori una nuova ondata di indagini giudiziarie sulla politica, io credo che sia veramente, come dire, non solo palesemente strumentale, ma anche contrario all'intelligenza, alla razionalità occidentale, no? Cioè, chiedere di riformare la giustizia perché ci sono delle indagini in corso sulla politica è come chiedere, invocare, non so, una riforma sanitaria in presenza di un'epidemia, invocare una riforma sanitaria che limiti, non so, l'uso della TAC, l'uso della risonanza magnetica, in modo tale da abbassare, diciamo, i livelli di individuazione dei malati, no? Cioè si abbassa, basta dire c'è la febbre, allora riforma del termometro, si chiama febbre solo sopra i 40. Cioè, questa è la cosa che si vuol fare, no? Riforma della giustizia, togliamo poteri al pubblico ministero così non li becca, i ladri continuano ad esserci ma i magistrati non li possono più beccare. Ok, quindi non riforma della giustizia su questo. Secondo, sono casi personali o sono i partiti e le correnti ancora una volta? Io credo che ci sia una diversa, una grande diversità dalla cosiddetta Prima Repubblica, cioè mentre la Prima Repubblica il sistema dei partiti era strutturalmente e in maniera centralizzata, organizzati per fare una raccolta di fondi fuori dalle regole, con i cassieri centrali, con, diciamo, era un sistema organizzato e scientifico. Oggi ciascuno si fa il suo sistema, oggi ciascun, non ci sono più, diciamo, i capi centrali se non per le grandissime questioni nazionali, i grandissimi affari nazionali, l'alta velocità, la telefonia, quelle cose lì. Per il resto ciascun capo bastone nel suo territorio si fa i suoi sistemi di raccolta di tangenti. Chiarissimo, e quindi questa sarebbe la differenza, ma che non significa quindi che sono tutti casi personali, le reti ci sono e come. Terza cosa, il compagno D'Alema, quando vi dicevo inseguite le tricoteuse, domanda per questa è la ragione del vostro successo e siete duri con tutti, il compagno D'Alema vi ha definito, parlando a Luca Talese che scrive anche egli per il Fatto, tecnicamente fascisti, dove il tecnicamente fascisti non era per come la pensate politicamente, ma era perché usate come un maglio per infangare, non diversamente, ha detto lui, da quello che fanno Libero e Il Giornale, e per avere successo e per fare antipolitica. Questa è la tesi che uso da D'Alema, perché la esprime brutalmente, di tanti altri che la pensano però così in politica da una parte e dall'altra. Alla risposta a questa osservazione, che è facile inseguire le tricoteuse così si fanno copie e si semina l'antipolitica, la risposta qual è? La risposta è che non seguiamo nessuna tricoteuse, raccontiamo i fatti, cioè basta seguire i fatti, non occorre neanche stimolare il tiro delle monetine. tra un po' forse le monetine si tireranno e anche i forconi forse, ma non è colpa nostra. A me non piacciono i cappi esibiti in Parlamento, che peraltro vennero esibiti da quelli della Lega. Le monetine durante Mani Pulite furono tirate dai giovani dell'MSI, che adesso stanno da un'altra parte, come partito. E la terapia quindi? La terapia è che questa politica è malata, cioè che questi partiti, la selezione interna della classe dirigente viene fatta sulle capacità di raccogliere, di aver potere, di raccogliere soldi, di instaurare rapporti con le imprese, malata. Cioè proprio è un sistema, cioè si fa carriera in questi partiti, oggi come ai tempi di Tangentopoli, se si è più furbi e se si è capaci, più capaci di altri, di raccogliere fondi e instaurare rapporti di potere con l'impresa. Questo che è malato e che va distrutto, cioè è proprio un modello di partito che va assolutamente cambiato. A me sembra che sia anche diversa però la cosa delle imprese rispetto ai coinvolgimenti di grandi gruppi eccetera. I grandi gruppi qualcosa hanno imparato, cioè se alla fine escono fuori rapporti tra l'onorevole Milanese e gente di Cervinara, lo dico con tutto rispetto, non è la stessa cosa come invece avveniva negli anni precedenti, alla Prima Repubblica, con tutti i gruppi coinvolti, perché quella era una rete sistematica di finanziamento parallelo attraverso le tangenti ai grandi lavori, delle ristrutturazioni delle centrali alla politica e ai partiti. Ma Giacalone, cominciamo invece con la terapia da lei, dalla fine. Sono un po' raffinati. Sono un po' raffinati, non lo so, secondo me c'è qualcosa invece strutturalmente diverso, no? Io su questo non sono molto d'accordo, la mia opinione, però i fatti non ci testimoniano oramai il coinvolgimento dei grandi gruppi, ma neanche dei medi gruppi, stiamo parlando di cose molto diverse, stiamo parlando di una roba stratificata sul territorio, infatti i capi bastone, quelli che esercitano potere sul territorio, fanno questo, però all'epoca era completamente diverso. Giacalone, la sua terapia invece, cominciamo dall'ultima questione. No, io credo che una riforma della giustizia sia assolutamente necessaria, ma in un certo senso nel senso opposto da quello che teme Barbaceto, e fa bene a temerlo, perché molte delle cose che abbiamo sentito, molte delle battaglie che il centrodestra ha instaurato in Parlamento, in effetti erano, diciamo così, un po' per tagliare le unghie al pubblico ministero. No, vanno fatte in senso opposto, in senso di garanzia sia del processo, sia dell'indagato, sia della società nel suo insieme. Faccio un esempio per spiegarmi. Le intercettazioni telefoniche sono una piaga oramai inconsolabile, nel senso che si trovano ovunque. Si può risolvere questo problema limitando, come è stato chiesto dal centrodestra, le intercettazioni telefoniche? Assolutamente no, ma figuriamoci, l'idea che un gruppo di terroristi islamici o non islamici, fa lo stesso, vengano beccati e intercettati prima di far esplodere qualche cosa, mi riempie di gioia, non è che mi riempie di preoccupazione. Il fatto è che le intercettazioni, esattamente come capita nel sistema inglese, devono essere sistemi di indagini, mezzi di indagini, non mezzi di prova, il che significa che non vengono depositate, il che significa che non vanno sui giornali, o se ci vanno poi qualcuno viene arrestato. Cioè rimodulare il nostro sistema penale per garantire sia la sicurezza sia la dignità però del cittadino, ivi compresa il cittadino indagato, è indispensabile e non è più neanche di destra o di sinistra. È semplicemente ovvio, perché quando la nostra giustizia è in fondo alla classifica non dei paesi civili ma dei paesi nel loro complesso, quindi anche quelli incivili compresi, è evidente che occorre metterci mano. È la mia opinione e converge con questa. Attenzione, state attenti a capire a casa, quando si dice che è sbagliato limitare per un'amplissima serie di reati il ricorso alle intercettazioni, ma che invece bisogna intervenire sulla piena limitazione al fatto che siano strumenti di indagine e non mezzi di formazione di prova a prescindere, questo significa intervenire anche con energia nel cuore del meccanismo di alimentazione del circuito mediatico giudiziario, che tende poi ad anticipare il tutto nell'esecuzione pubblica e poi nell'attesa immediata, no? Con la pubblicazione delle intercettazioni, e poi la cosa si rimanda dopo anni e anni, quando oramai tutto il danno è incassato. Io in in questo non lo dico per senso di tutela dei politici corrotti eccetera eccetera, ma perché mi pare che qualcosa di malato nel meccanismo mediatico giudiziario, non sto accusando i colleghi del Fatto, non sto accusando nessun tipo di posizione, ci sia, è qualcosa di sistemico per cui alla fine non siamo mai riusciti a mettere una soluzione a questo. La mia opinione è che una delle peggiori responsabilità ne hanno, per chi la pensa come me, su Stato e tasse di pesantissime, perché hanno fatto l'opposto di quello che dicevano, ma una delle peggiori responsabilità di chi in questi 17 anni ha continuato a prendere voti e a promettere una riforma della giustizia sistemica, come anche ha detto adesso Davide Giacalone, in quel senso anche lì, e invece non lo ha mai fatto, è che dopo non averlo fatto implica agli occhi di tanti cittadini far perdere credibilità a chi fa un ragionamento come quello che ha appena fatto Giacalone e che, di cui sono convinto più modestamente anch'io, perché ci dobbiamo sentir dire: voi siete gli amici dei politici corrotti. A me dei politici corrotti non me ne frega un piffero di niente, per quello che mi riguarda. Mi preoccupa solo se vedo che il Parlamento non capisce più la differenza tra una custodia cautelare per questioni di stragi, di sangue, di terrorismo, e invece diventa una cosa su cui bisogna mettersi sull'attenti. E in questo io non entro nel giudizio politico su ciò che faceva l'onorevole Milanese al Tesoro, perché è ovvio che quella è una cosa che politicamente mi sembra, ecco, al di là dei profili penali, li accerteranno loro, ma è una roba, insomma, che mi fa prudere le mani e prudere la lingua, intollerabile, come è evidente. Questo è il mio giudizio, ma per farvi capire, voi che siete in ascolto, la delicatezza: quando le riforme non arrivano si perde credibilità a pensarla in maniera garantista e liberale, e per questo che io non li sopporto più a questi signori che stanno là. Questa è la mia modestissima opinione. Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte a parlare di politica e giustizia. Sentiamo due testimonianze, opinioni di ascoltatori. Cominciamo con Alessandro, che ci chiama da Roma. Ma prego, Alessandro. Buongiorno. Io volevo solo portare una testimonianza riguardo al fatto che, essendo io in, diciamo, nel settore delle tecnologie dagli anni 80, ho vissuto sia il 93 che adesso. E devo dire che la situazione di oggi è nettamente... Quando dice essendo, significa che c'è un'impresa, un manager? Che... Sono un manager di una grande impresa. Perfetto. Devo dire che adesso la situazione è nettamente peggiore. Più richieste improprie da parte dei politici? No, non ci sono richieste dirette, ma c'è proprio un sistema che permea i consigli di amministrazione delle aziende, non solo quelle pubbliche, purtroppo anche quelle private. Prima il fenomeno era più che altro spostato su quelle pubbliche, adesso invece c'è anche una forte permeazione delle aziende private, e questo avviene da quando la destra, diciamo, è al potere. E niente, questo fenomeno sta distruggendo il mercato. Quindi lei dice aziende... che in realtà in questi anni di destra la corruzione è aumentata anche nel mondo privato, ma perché c'è la destra, lei dice? No, io non voglio, diciamo, non sono di parte, quindi non mi interessa destra-sinistra, però dico, da quando c'è al potere questo tipo di organizzazione, quindi diciamo da quando è arrivato Berlusconi più che altro... Lei dice anche il mondo delle imprese e della società è peggiorato. Questa è la sua esperienza. Ma di parecchio. Oggi infatti le grandi aziende hanno grosse difficoltà a stare sul mercato italiano, ma veramente grosse difficoltà. Eppure abbiamo introdotto una norma, la 231, che in realtà fa saltare gli amministratori delegati e li renda penalmente responsabili anche per qualunque... È per questo che le grandi aziende hanno difficoltà, perché le grandi aziende tendono chiaramente a non sottostare più a questo sistema. Favoriscono, diciamo così, le aziende locali, diciamo così. Grazie Alessandro. Antonio, che ci chiama da Udine, prego Antonio. Buongiorno Giannino, io faccio una piccola premessa: ritengo che i due aspetti di corruzione tra la prima Repubblica e quella attuale siano abbastanza diversi, perché come è già stato detto, il primo era un sistema e la corruzione che stiamo vedendo oggi è più qualcosa legata al singolo, all'arricchimento del singolo. Detto questo, i nostri politici devono assolutamente rendersi conto che il contesto è molto cambiato, perché esiste Internet, perché oggi c'è una visibilità assoluta di quello che loro fanno, che stanno portando a un'esasperazione delle persone. Ascolti, io penso che il politico di oggi sia talmente accecato da pensare a un proprio tornaconto, che veramente non si sta rendendo conto di quello che sta succedendo nel paese. Le persone sono stanche, c'è una disaffezione trasversale, destra, sinistra, ormai l'elettorato non pensa più ad essere sinistra, l'elettorato pensa a mandare a casa questa classe politica in generale. E sicuramente ci vorrà ancora qualche anno, ma arriveremo a qualcosa di forte. Qui prima un suo ospite parlava di lancio di monetine all'allora Craxi, quando il problema qui è che la gente non avrà più il modo di sostentarsi, e arriveremo a qualcosa sicuramente di più. La preoccupazione, ripeto, è che oggi il nostro politico non se ne sta rendendo conto, perché pensa che dando in pasta l'onorevole Papa in quel frangente, perché comunque c'era un rumor molto forte che doveva portare a un segnale, pensa di aver risolto il proprio problema, o pensa di vivere ancora qualche mese facendo quello che sta facendo. La gente non è più stupida, c'è internet, c'è un passaparola fortissimo di quello che sta succedendo. No, ma Antonio, l'hai detto chiarissimo, la posizione, sì, c'è internet, c'è il movimento Viola, c'è i voti a 5 Stelle di Grillo, c'è il successo del fatto, c'è la crisi un po' di tutti gli altri, eccetera, eccetera. Detto questo, io non credo che siamo invece a sommosse di piazza, per così dire. Dal punto di vista purtroppo economico e finanziario, dico purtroppo, l'Italia è così patrimonializzata che per anni può crescere pochissimo, perdere molti punti anno per anno e rendersene conto solo dopo molti anni, perché prima di intaccare il patrimonio che è molto ricco degli italiani ci si illude attingendo al grasso che si ha intorno ai propri fianchi, anche quando questo grasso, voglio dire, non è molto, però è comunque maggiore di quanto in media, a parità di reddito disponibile, abbiano risparmiato in patrimonio cittadini di grandi paesi europei, e questo purtroppo ci intorpidisce nella reazione. Quindi questo per dire, chi dice adesso l'Italia impoverita scenderà in piazza, io purtroppo non penso questo, nel senso che le dinamiche italiane sono diverse e lunghe. La stessa domanda ultima che faccio rapidamente a Sergio Luciano e a Tony Mira: cosa vi aspettate voi? Un declino lento dei consensi generalizzati e voti di protesta, oppure anche qualche cosa di più profondo, e qualcosa di una rottura più energica nel consenso tra elettorato e politica? Sergio Luciano. Secondo me la scatenante può essere l'aggravarsi della crisi. Cioè il fatto che, tu dicevi prima, antropologicamente eleggiamo le persone sbagliate, è una cosa che non morde e non basta, con tutta l'ammirazione per il successo editoriale del Fatto, la preparato di alcuni fenomeni politici spontanei, non bastano queste cose a dare il segnale di un cambio di orientamento. Quello che può succedere è che se la crisi economica continua a imperversare, la gente capisce che forse deve chiedere di più a quelli che elegge. Tony Mir, si condividi quello che dici tu, che c'è, cioè, antropologicamente l'elettorato italiano è incapace di farsi rappresentare persone per bene. Insomma, adesso, senza essere così estremi, però cogli un punto, per così dire. Tony Mira, ma il mondo cattolico, che è stato protagonista e ribaltato dalla Prima Repubblica e poi si è disseminato e oggi si fa nuove domande se tornare a riunirsi, da queste vicende che lezione trae rispetto al bipolarismo? Guarda, poche settimane fa discutevo di questo con Agnese Moro, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto lontano e tu conosci bene. Anche il Papa e i Vescovi hanno ricordato sempre più spesso la politica come servizio, direi anche la politica come diritti e non la politica come favori. Fin quando la politica sarà la politica dei favori, credo che ci troveremo sempre a cozzare contro il fenomeno della corruzione e della mala politica. Certo che questo non vuol dire un discorso pessimistico e quindi non cambierà nulla. Anch'io sono convinto che più si tirerà la corda della crisi economica, più le famiglie si troveranno in difficoltà, più la gente vedrà che c'è qualcuno che continua a approfittarne, alla fine la corda potrebbe rompere. E chissà che poi l'esito non possa essere, se si votasse oggi con questa legge elettorale, sarebbe così un paradossale rafforzamento del centro, non solo quello di Casini e Montezemolo di oggi, ma anche un ritorno al centro, che sarebbe quello che non fa scattare i premi di maggioranza al Senato né per gli uni né per gli altri, e tornerebbe decisivo a quel punto per dettare l'agenda, la politica di governo del paese. Domani un altro incontro con Da Cortina Incontra sui temi dell'agenda economica e internazionale, quindi il punto sarà quanto rapido è il momento in cui gli italiani non ce la fanno più a tirare la cinghia e passiamo in una fase un po' più esplosiva da questa che è di delicato, rapido accelerazione della crisi di sostenibilità italiana. Intanto, grazie agli ospiti di oggi, a Sergio Luciano, a Davide Giacalone, a Gianni Barbacetto, a Tony Mira, Linea Generale Radio, appuntamento a domani.